Buongiorno da Maurizio Melis. Questa sera a Mr. Kilowatt continueremo a raccontarvi degli esperimenti svoltisi a Bologna, dove negli ultimi mesi è stato testato un oggetto, l'Energy Catalyzer, inventato dall'ingegnere Andrea Rossi e che sembrerebbe funzionare sulla base di una reazione annoverabile tra quei fenomeni che ricadono sotto la definizione di fusione fredda o più correttamente low energy nuclear reaction, ovvero reazioni nucleari a bassa energia. Stasera sarà la volta del professor Focardi, che fu tra i primi a svolgere esperimenti con il sistema nickel idrogeno poi perfezionato da Rossi. Come vedremo, la storia di questi esperimenti inizia poco dopo l'89, anno in cui si sentì parlare per la prima volta di fusione fredda, e prosegue negli anni con la pubblicazione di vari articoli. Cercheremo anche di capire quale spiegazione propone Focardi per questo fenomeno, per quanto, questo va detto senza esitazioni, siamo lontani da una sua generale accettazione da parte della comunità scientifica. L'appuntamento è come sempre alle 21.05 dopo il GR delle 21 qui su Radio 24. A voi tutti da Maurizio Melis, buona giornata.